dicerie varie, anche in questo senso una sorta di ripresa di quello che è stato uno dei grandi momenti degli anni 90, forse l'ultimo movimento insomma sperimentale, se vogliamo considerarlo così, ovviamente movimento musicale con tutto il rimando appunto a Mill Plateau, a certe faccende della Force Incorporation e tutta quella materia delesiana che scoppiava in maniera incredibile, con veramente tanto da esprimere rispetto appunto all'uso, all'utilizzo del digitale in maniera sbagliata, quindi il glitch in questo senso, lo sbaglio, il punk errato, quindi dentro il digitale e con appunto Vectroid, Macintosh Plus e anche con New Dream Limited, siamo entrati appunto in una sorta di vaporizzazione anche estrema, se vogliamo, di una certa dance forse devoluta in maniera definitiva, con rimandi tanto a una certa house decostruita quanto a una dance inventata molto lunare e poi espansa anche nella sua materia insomma di fatto sempre deviante per nascita, se pensiamo insomma a certa disco metà degli anni 70, come nasce insomma dentro certi circuiti assolutamente off, per poi diventare assolutamente mainstream, poi con tutte le sue varie derive, e cosa che verrà recuperata da certa house di Chicago, anche qua le prime potremmo anche proprio dire sperimentazioni di fatto sulla house music, utilizzando le macchine 803 in primis male, quindi facendo uscire dei suoni inauditi, e anche qua quindi una dance che parte snaturata, contro natura se vogliamo, e quindi viene anche ripreso questa attitudine, non tanto appunto in termini semplicemente sonori, ma come approccio e come attitudine generale all'elettronica, al tecnologico come discorso appunto molto, molto lato. E poi dentro New Dream Limited abbiamo trovato anche una specie di Susan Chani, ancora forse più estremizzata nel farsi musica funzionale, perché poi le prime sperimentazioni della grande artista, tra l'altro americana, partivano appunto dai primi oscillatori, dalla prima computer music, per poi diventare musica funzionale, mood music, muzaka anche, legata ai primi videogiochi e ad esempio all'Atari, ma musiche legate alla Macintosh. Musiche che appunto si facevano anche di fatto marketing, anche se poi appunto inizialmente, come tante delle cose che poi inizialmente hanno questa natura o questa contronatura, come accennavo prima, che le portano a essere un altro, un qualcosa che si può anche appunto, ed è stato fatto questo con questa vaporizzazione, questa sorta di esperimento dentro questi lavori, quindi di fatto farli diventare un altro quando appunto hanno già in nuce questa alterità, e con tra l'altro quel tanto anche di non forse ironia, ma forse proprio accanimento terapeutico quasi rispetto a una sorta di demenza e di decostruzione, che però stranamente, se guardiamo copertine degli autori che stiamo appunto passando questa sera, danno un'immagine iperrealista dell'high tech, quasi appunto rendendolo paradossale, ridicolo quasi, come molta buona arte appunto dell'iperrealismo. e con Come True Is, quindi un gioco chiaramente di parole che ci riporta a un personaggio ben noto del cinema di cassetta americano, il blockbuster insomma di Tom Cruise, qua appunto reso paradossale e forma appunto nuova attraverso questo artista che lavora anche lui su questo immaginario super, potremmo dire, iperrealista, perdonatemi insomma, come dire, queste parole fin troppo gonfiate, ma d'altronde è veramente una poetica anche dell'estremo, in questo senso, dell'estremo nel senso di paradosso, se pensiamo a Seth Haley come Tom Cruise, ma anche come airliner, dove veramente c'è un'estetica quasi da rossetto, quasi da maquillage, insomma, di una sorta di rivista di moda mai esistita, forse, o forse portando all'estremo quello che è stato e quello che è per molti versi, quindi un'irrisione capitalistica utilizzando gli stessi linguaggi insomma del capitalismo e portandolo appunto a un paradosso, a un eccesso. Ci andiamo appunto ad ascoltare questo Come True Is, Seth Haley, con un disco veramente splendido, Galactic Melt, dove veramente sentirete una specie di centrifuga forse vagamente e falsamente gentile, perché in realtà contiene veramente tanto tanto indole sarcastica. Thank you. Thank you. la Vaporwave di Com Cruise con Galactic Melt, una sorta di frullatore e di tutto quello che appunto può essere un immaginario tanto elettro quanto legato a certe ambientazioni quasi New Age, se non fosse che c'è anche un forte immaginario legato a quel pop elettronico degli anni 70, quel synth che si sentiva dentro certe faccende, anche se vogliamo piuttosto assurde, e tipo Ten CC, insomma, si sentiva quasi Another Love, che tra l'altro riecheggia in una certa qual misura anche nei progetti che abbiamo ascoltato prima. Sì, ma come Vetroid, che anche come Chuck Person, e per invece futuri rumori, ma neanche tanto invece, visto che trattiamo faccende anche qua forse vaporizzanti, perché trattiamo una materia stranamente dense, stranamente legata al mondo della, più che forse della dance, forse della percussività, del rendere il ritmo, del creare, ricreare e appunto in una certa qual misura anche rendere l'astrato, vaporizzarlo in questo senso. E il percorso piuttosto particolare, originale di Matteo Scaglioli in quella di Ravenna, da molti anni che lavora in realtà, insomma, un futuro rumore, ma nel senso appunto anche proprio di underground, che forse prima o poi esploderà dentro appunto un mainstream, o forse farà esplodere il mainstream. Questo forse è l'augurio un po' anche delle nostre vaporizzazioni di questa sera. E Matteo Scaglioli parte come percussionista, batterista, appassionato appunto allo strumento, tanto poi da fare un viaggio completamente perso per la tabla indiana, proprio in India, appunto, dove lavora anche con artisti locali che comunque hanno un certo riscontro anche internazionale in termini appunto di grande capacità strumentale, e proprio con la tabla. E questo intorno alla fine degli anni 90, quindi stiamo parlando insomma di un po' di anni fa, se non fosse insomma che appunto anche questi tempi sono molto vaporizzati, no? Non si capisce bene perché parlare di 20 anni fa, quando una volta appunto, quando si diceva 20 anni fa, si pensava a chissà quali tempi remoti, no? E appunto in questo senso c'è una sorta di liquidità nel tempo, anche forse nel lavoro appunto di Matteo Scaglioli, che intorno alla metà degli anni zero si innamora delle elettroniche, di certo modo anche qua di lavorare in maniera astratta sulla materia ritmica, se pensiamo alle sue collaborazioni con AWB, veramente eccezionale nel suo essere cinematico, AWB, e nello stesso tempo anche vicino e ha un modo di sperimentare appunto la ritmicità fino a renderla qualcosa di molto avulso anche dalle piste da ballo, o forse rientrando dentro quel poi strano fenomeno che è stato l'ambient dance, l'ambient house, la mental, come magari una volta si chiamava, che era appunto più una dance appunto mentale. E lavori tra l'altro elettronici che porterà avanti in maniera underground in termini appunto di ricerca sulle ritmiche, ma anche con collaborazioni, grande curiosità verso le forme teatrali e cinematografiche, addirittura arrivare appunto ai nostri giorni con un progetto assai affascinante, quello di sonorizzare il ritorno dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti proprio sulla Terra, tra l'altro a Ravenna, con il progetto appunto Man Lost in the Space, forse Woman Lost in the Space in questo caso, forse per la Cristoforetti, con la regia video di Gianluca Beccari. e quindi ha anche un senso spaziale che prende la sua musica, quindi veramente è una sorta di, più che di vaporizzazione, proprio di decollo. E andiamo a prendere appunto da un suo esperimento, Soul Searching, dove appunto una specie di house music, ma molto, molto particolare, appunto molto originale nel suo essere trattata a latere, non entrando mai dentro, proprio per questa voglia appunto di sperimentare, molto, molto totalizzante poi in termini musicali, appunto di Scaglioli, con questa strana forma di cassa un po' sbilenca che attraversa appunto tutto il pezzo, con una ambientazione che rievoca tanto certe appunto astrattezze melodiche, anzi armoniche, appunto orientali, tanto appunto certe vaghezze, potremmo dire anche wave. Cioè, andiamo appunto ad ascoltare Matteo Scaglioli, felici che sia dentro Futuri Rumori con il suo Soul Searching. Thank you. Matteo Scaglioli, ascoltato da appunto Soul Searching, il lavoro che, come dicevamo prima, così spazializza una certa idea di ritmicità, trova quasi una specie di dialettica tra appunto ritmo e ambientazione, appunto anche forse con quella spazialità che prima accennavamo rispetto anche al progetto di sonorizzazione del ritorno della Cristoforetti dallo spazio. In questo senso la ritmicità che ci porta a un discorso assolutamente terreno, poi viene utilizzato, e forse in questo senso anche l'amore per la tabla che ha avuto per un periodo, quindi per armonie diverse rispetto alle occidentali, quindi tutto anche lo studio della tabla indiana, delle musiche quindi indiana, della percussività indiana, porta ovviamente poi a strattizzare la faccenda assai interessante appunto del percorso di Matteo Scaglioli, che tra l'altro tra qualche settimana o giorno addirittura dovrebbe uscire proprio con un nuovo EP stampato in vinile. Aspettiamo insomma di sentire insomma quello che sarà appunto il lavoro nuovo di Matteo Scaglioli, che salutiamo tra l'altro. E concludendo questa vaporizzazione, forse se abbiamo iniziato con l'Opatin Onetrix, più conosciuto Point Never, beh, non potevamo che concludere con James Ferraro, iniziato il suo percorso musicale in maniera più che devastante con Skaters, sonorità non lo-fi ma no-fi, veramente sembravano registrati in cantina, con un suono e con una eco incredibile che trasformava questi suoni completamente disfatti in qualcosa di seriamente metafisico e veramente altro. Con Skaters, per buona parte insomma degli anni zero, ha solcato il noise più incredibile, anche appunto per trattamento così feroce, si potrebbe dire, proprio dell'effettistica eco, del delay e di un suono appunto portato quasi a una forma di azzeramento, forse veramente sotto lo zero da parte di Skaters. Ma intorno alla fine degli anni zero inizia a fare lavori in solo, sempre seguendo più o meno Skaters, anzi un po' prima della fine degli anni zero, per poi arrivare appunto invece in questo caso proprio alla fine degli anni zero con Marble Surf a fare un disco memorabile per trattamento dell'ambientazione, trattamento di quello che appunto è stata considerata come new age, maniera appunto molto personale, molto così pre vaporwave, e fino ad arrivare a un lavoro che veramente ha fatto discutere quasi a livello mainstream. Esce appunto come lavoro del 2011, addirittura nella prima posizione della famosa rivista Wire come disco appunto dell'anno, e c'è una serie di proteste dei vari lettori di Wire rispetto a questa prima posizione, per musiche che vengono definite assolutamente improbabili, improponibili, per pulizia, per appunto recuperi quasi assurdi di suoni quasi neutri, altro che ambient, e quasi appunto vicini proprio alla New Age, quella più becera della fine degli anni Ottanta, mentre invece Far Side Virtual, un disco, un oggetto oscuro potremmo dire, forse anche del desiderio appunto di futuro. Non andiamo a prendere però questa vaporizzazione così forse potremmo dire manifesta di Far Side Virtual, ma andiamo a prendere invece uno degli incubi notturni, una sorta di New York vaporizzata tra incubi noir e mutamenti continui di un suono che si va appunto trasformando da, quasi da se stesso, prendendo vita attraverso la notte di New York, intorno alle 3 del mattino, appunto, c'è questa narrazione di James Ferraro. Vi rimando a mercoledì prossimo, vi rimando al concerto di sabato per quanto riguarda William Basinski a Firenze, e vi rimando ovviamente a domani a 451 intersezioni con Eliseo Scarpa. E poi dove mi devo mandare? Mi mando anche a 451 frammentisonori.noblogs.org, dove avete pensato di mandarsi, scusate. E appunto alla prossima. Vaporizzazioni, ci vaporizziamo, vaporizzo anch'io ovviamente in questo momento, e anche chi mi ha accompagnato questa sera anche proprio fisicamente in trasmissione per questo 451, appunto, vaporwave, vaporizzazioni e altri fenomeni affini forse. What a fucking loser you are. American violence.